festeggiamo la fine di questo inverno strano in qualche maniera, per così insomma, per dare anche una cadenza ideale alle nostre cose. Sostanzialmente abbiamo fatto la festa di fine estate, chiamiamola così, quella di settembre dell'anno scorso, e dopo quasi 6 mesi circa andiamo a ripeterci, insomma. Sotto il gasometro però quest'anno. Esatto, sotto il gasometro. Noi abbiamo questa collaborazione, fortuna e amicizia stretta con Steno del vecchio Son dei Nabat, e si è offerto volentieri. Tra l'altro loro hanno suonato proprio alla festa che facemmo a Bosco Albergati a settembre. Così, ragionando anche con lui, ho detto: ma scusa, perché non venite giù al vecchio Son a ripetervi, insomma? Per cui abbiamo deciso di giocare in casa, visto che poi lì facciamo diverse cose. E allora così andiamo sotto al gasometro. Cosa prevede la serata? Perché vedo che ci sono diversi momenti. Sì, allora la serata in realtà ha una, come posso dire, una line up, si dice così, sì. Una line up molto molto gustosa. Uno, perché anche qua facciamo suonare persone che sono in qualche maniera amici. Allora partiamo da gli Oltre la Linea, che sono dei ragazzi che si sono messi insieme da poco tempo, da un annetto circa. Tra l'altro abbiamo fatto l'intervista proprio nella trasmissione di lunedì scorso, una trasmissione Bal Difendi di lunedì scorso, che potete trovare nel podcast che appunto facciamo ogni volta. Sono molto interessanti, i ragazzi vengono dalla provincia dell'Appennino, ti dirò, hanno fatto una registrazione, suonano benissimo. Tra l'altro anche questi giocano in casa, perché fanno le prove giù al vecchio Son, ce le hanno segnalate appunto Steno. Dopodiché ci saranno i Black Mirrors, che sono degli amici, e soprattutto Giorgione, che è un caro amico di vecchi tempi e di militanza politica, conosciamo da diversi anni. Anche lui è redattore di Radio Città Fujiko. E anche lui, infatti, stavo arrivando a quella, anche lui è redattore di Radio Città, con questo bellissimo programma dissacrante. E quindi anche loro sono in un momento molto buono, perché hanno ripreso a suonare dopo un po' di inattività, hanno fatto un concerto non troppo tempo fa al VAG 61, e quindi abbiamo approfittato di questa verve loro di riprendere appunto l'attività, per appunto rimetterli su un palco. E per ultimo abbiamo i C4, che sono una band esclusiva sarda, che sono spettacolari sinceramente. Anche qua ci abbiamo amicizie, perché il batterista comunque è anche batterista dei Nabat. A loro fanno una, diciamo, una reunion, perché purtroppo loro, pur facendo appunto attività musicale anche con concerti, però ognuno vive da parti di differenti, per cui hanno un po' fatica a fare concerti. Però tutte le volte che si ritrovano, cosa che diciamo anche nell'intervista con Roberto che abbiamo fatto appunto lunedì scorso, suonano come se fossero insieme da sempre, cioè si trovassero ogni settimana a fare le prove. Per cui anche loro sono una bella, come la definiamo noi, una bella bombetta, tutta roba street punk più o meno. I Black Mirror sono un po' più punk rock, però è tutto, diciamo, tutto instradato sul filone punk acceso, appunto street punk. Prima di questi concerti faremo, prima e dopo, faremo un po' di DJ set, ovviamente visto le tematiche che tratta la nostra trasmissione, legata al mondo ovviamente politico, con appunto ragionamenti in musica e in parole. Adesso vediamo poi cosa faremo di preciso, però legato molto al discorso indipendentista, autodeterminazione dei popoli, tant'è vero che il gasometro che c'è nella locandina l'abbiamo disegnato con la bandiera palestinese. Non è un caso che faremo un gruppo sardo. Noi siamo sempre stati attenti alla causa basca, per cui insomma un po' di questo è un po' il condimento che avremo in questa serata. Ci saranno anche dei distro, per cui si potrà trovare un po' di materiale legato ai vari gruppi, a noi, e buono, ecco, questa è un po' la serata come si svolgerà. E allora io ricordo l'appuntamento per sabato 2 marzo al vecchio Son in via Sacco 14, ingresso 5 euro per Balla e Difendi sotto il gasometro. Grazie, esatto. Mille Oddo. Grazie a te, grazie a tutti quanti. Grande, avanti Radio Città Fujiko.